2024 di Enrico Pagliarini. Tutto pronto anche per questa puntata di 2024, benvenuti o bentornati. Oggi parliamo di rivoluzione digitale, cercheremo di capire tra poco come l'Italia può approfittare delle opportunità che si stanno creando e soprattutto come, facendoci anche una domanda, siamo ancora in tempo? Nella seconda parte abbiamo un menu molto ricco di apps, ovvero le applicazioni. Avremo un paio di ospiti, una seconda parte altrettanto interessante. Come sempre saluto Paolo Corleone, che si occupa anche oggi della parte tecnica e creativa di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, oppure se volete chiamarci per parlare con noi in diretta, numero verde 800 24 0024. Parleremo con voi di applicazioni nella seconda parte, quindi se volete già prenotare un vostro intervento potete già farlo. Vi dicevo, iniziamo con una riflessione sulla rivoluzione digitale. Da pochi giorni è in libreria un libro che si intitola Banda Stretta. Esiste la versione cartacea e naturalmente anche la versione digitale, cioè l'ebook, scritto da Massimo Sidere, che è un giornalista del Corriere della Sera, e da Francesco Caio, l'ingegner Francesco Caio. Benvenuto, o meglio, bentornato a 2024, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Senta, voi avete scritto questo libro pensando al sistema paese e pensando non agli esperti, dico bene? Esatto, sì. Un libro che non si occupa di banda larga. Uno potrebbe, leggendo il titolo, prenderlo come un'ironia sulla banda larga, perché banda stretta potrebbe proprio puntare il dito verso un deficit che noi abbiamo e che stiamo combattendo. Poi affronteremo anche questo capitolo. Piuttosto invece di che cosa si occupa il libro? Ma vuole o tenta di mettere nel contesto storico il fenomeno dell'innovazione digitale e degli impatti che questa innovazione sta avendo su tutti gli aspetti della nostra vita privata, economica e sociale, e prospettare uno stimolo o la necessità di ripensare alcuni modi di essere impresa, di essere istituzione, di essere cittadini in un nuovo mondo digitale. Senta, io a volte sono un po' preoccupato per questo paese, ma leggendo il libro qualche preoccupazione se n'è andata, perché mi sembra che la vostra prospettiva, voi usate anche molto spesso verbi al futuro, pare che non siamo poi così in ritardo, cioè questa rivoluzione sta iniziando solo in questi anni e quindi forse abbiamo ancora tempo per coglierla. Sono contento di questa sua osservazione, perché condivido l'osservazione. Nel senso che questo è un fenomeno che sta vivendo tutto il mondo, tutte le civiltà, tutte le società. E il tema, se vuole, è capire come queste società si pongono proprio di fronte al futuro. E uno dei messaggi o delle riflessioni del libro è una reinterpretazione del futuro in chiave di prospettiva di sviluppo. E vale a dire, se noi cogliamo questa rivoluzione digitale per guardare al nostro futuro come pieno di opportunità, allora ce la possiamo fare. Se lo guardiamo come pieno di minacce, è chiaro che si apriranno delle differenze fra come le varie società colgono questa opportunità. Quindi lei è d'accordo con chi dice, e nel caso è una cosa che una frase che cito spesso perché mi piace e penso che sia proprio adeguata a quello che ci stiamo dicendo. Bezos di Amazon disse, sì, qualche anno fa, ma penso che sia ancora attuale, attenzione, non siamo nel web 2.0 ma siamo solo allo 0.2. quindi noi sono assolutamente d'accordo, noi siamo alle primissime luci dell'alba di un giorno molto lungo, che dobbiamo però oggi iniziare a ipotizzare e soprattutto progettare. Non vogliamo che ci venga addosso, no? Ma vogliamo in qualche modo essere architetti di un futuro pienamente coscienti di quali sono le tecnologie di cui possiamo disporre. E sono, a suo modo di vedere, più le persone che vedono quello che sta succedendo come una minaccia o effettivamente c'è consapevolezza nel paese che ci siano molte opportunità? Io penso che è qui forse dove si apre un po' una differenza, un gap fra l'Italia e gli altri paesi dell'Europa e gli Stati Uniti e soprattutto i paesi dell'estremo oriente, perché colgo a volte un eccesso di preoccupazione, un eccesso di poca importanza data a queste cose in Italia rispetto ad altri paesi. Io ovviamente faccio un confronto immediato con la mia esperienza inglese. Anche l'atteggiamento delle istituzioni sembra porre più un tema di enfasi e di futuro su queste tecnologie che non in Italia. Sì, a proposito dell'esperienza inglese, ricordo che l'ingegner Caio è stato, oltre che guida di una grande azienda come Cable and Wireless, però anche consulente del ministero del governo più in generale britannico per il progetto di digitalizzazione del paese, che anche in Gran Bretagna, devo dire, procede non velocissimo. Non procede velocissimo, ma procede secondo me in modo più sistematico, nel senso che dopo il lavoro che avevo fatto sulla banda larga si avviò un tema più ampio di cui si parla anche nel libro, un progetto chiamato Digital Britain, che oggi è in fase di esecuzione e di realizzazione da parte di tutti i dicasteri. Per quello che però riguarda le infrastrutture, l'Italia e l'Inghilterra si trovano in due posizioni molto diverse, nel senso che per il governo c'è forse, fra virgolette, meno da fare in Inghilterra, perché la concorrenza fra due reti, la TV via cavo e la rete telefonica, è un motore di sviluppo che purtroppo noi in Italia non abbiamo. Infatti voi nel libro spiegate, illustrate anche questo passaggio. Un breve accenno, perché ci stiamo avvicinando a questo tema, al tema della banda larga, della infrastruttura, che non è l'unica cosa da fare, perché poi vedremo che ci sono molte altre cose da costruire, da progettare. In questo ambito cosa vede in Italia? Ricordiamo che lei ha fatto e presentato al governo italiano un progetto che si chiama, ancora oggi viene ricordato come Piano Caio, tra l'altro una delle prime vittime di Wikileaks, quando Wikileaks ancora nessuno la conosceva. Sì. Devo dire che all'epoca, quando anche io andai a leggere il Piano Caio attraverso Wikileaks, molti dicevano: ma cos'è Wikileaks? Oggi invece, insomma, tutti sappiamo che cos'è. È passato un po' di tempo, sembra che non sia passato tempo. Ma diciamo, bisogna anche lì fare un po' delle considerazioni più precise. C'è un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo gestita da Romani che ha negli ultimi mesi creato un luogo fisico perché i vari gestori possano definire un programma e una visione comune. Certo è che sull'altro versante, quello cioè di una copertura nazionale della banda larga così come abbiamo come nell'attuale tecnologia, io mi sarei aspettato un po' più di velocità. Senta, un'altra cosa che ho colto leggendo il libro è che a volte non ci stiamo accorgendo di quello che sta accadendo. Quanto è vero? È una mia sensazione oppure no? No, io condivido. Cioè che la rivoluzione sia molto più vasta di quella che ci stiamo accorgendo. Ma guardi, questo è se vuole un po' una riflessione che ho fatto insieme a Sideri mentre scrivevamo il libro. Forse sarà legato, io lo vedo come da un'ottica un po' da ingegnere. Le regole di fondo, le regole quasi fisiche che hanno guidato e che guidano questo processo. Questa legge di Moore, dal nome di chi ha inventato il semiconduttore integrati, è obiettivamente interessante, perché noi nel giro di pochi anni siamo passati da macchine che richiedevano un palazzo e degli impianti di raffreddamento che costavano centinaia di milioni di dollari ai telefoni che oggi ci mettiamo in tasca, che equivalgono in potenza. Allora capisce che queste tecnologie nate negli anni 60 e 70 per facilitare il lavoro di un certo sistema industriale, hanno finito per mangiarselo quel sistema industriale. Cioè siamo passati da un mondo all'altro quasi senza rendercene conto. L'analogia che io faccio spesso e che in qualche modo è anche ripresa nel libro è l'analogia del lancio verso l'orbita. Cioè nella prima fase del viaggio gli astronauti sono sempre più compressi e quindi c'è quasi più gravità di quella che si aveva all'inizio, ma nella seconda fase cambia il riferimento. È come se questa energia digitale ci togliesse i riferimenti cartesiani a cui siamo abituati. Si consuma anche molto più carburante nella prima parte. si consuma anche più carburante. È molto giusto come osservazione. Cioè, noi entriamo in una fase dove l'intelligenza può sopperire enormemente a una capacità, a una mancanza, o se vuole a un risparmio energetico. Le due cose sono legate. Qui si sente però la nuova cultura della sua azienda che sta guidando adesso. No, guardi, per rispetto ai colleghi tecnologi e tecnici dell'Avio, questa è un'analogia del tutto romantica che avevo in testa prima, però me la stanno confermando. Senta, si devono svegliare di più i cittadini, le aziende, la politica, lo Stato, l'amministrazione locale? Dico questo perché nell'ultima parte voi avete scritto un decalo, 10 regole indirizzate soprattutto alle aziende, se non sbaglio. Ma secondo me si devono svegliare di più le persone che oggi hanno posti di responsabilità, perché le leadership, siano esse istituzionali, sociali o anche aziendali, non sono sempre totalmente coscienti delle potenzialità e delle opportunità che queste tecnologie hanno. Io vedo spesso anche in consigli di amministrazione, non solo italiani, un livello, usiamo anche un termine un po' pesante, di ignoranza su queste cose, che è francamente un fattore di rischio, perché rischiamo di perdere delle opportunità. Un'altra cosa che voi scrivete è che non sempre si distrugge lavoro, quindi non c'è solo l'aspetto negativo, ma più spesso ci sono, come dicevamo anche prima, opportunità, quindi creazione di lavoro. Ma in generale, secondo lei, tutto quello che sta accadendo, e anche che a volte non vediamo appieno, favorisce di più la nascita di nuove aziende? Cioè, dobbiamo pensare che il nostro futuro sarà fatto da aziende che ancora oggi non ci sono, o può favorire in egual misura o addirittura di più le aziende tradizionali, quindi facendo leva su quello che già ci abbiamo? Secondo me si accelererà un processo che è già in corso dalla rivoluzione industriale. Se lei fa l'elenco delle 500 imprese più grandi che Fortune fa ogni anno e lo guarda su base decennale, troverà che ogni 10 anni cambiano i partecipanti a quell'elenco. Secondo me qui vale un po' una riflessione anche scritta nel libro. Queste tecnologie abbassano in modo importantissimo la scala minima che in ogni attività serve per poter competere. Significa cioè che il grande e il piccolo sono di fronte a questa opportunità un po' più sullo stesso livello. Allora, se è vero che i business tradizionali vanno verso una fase di downsizing, cioè di riduzione, perché queste tecnologie obiettivamente assorbono ruoli che un tempo erano gestiti dal lavoro, ma attenzione a guardare solo questo lato dell'equazione. Ce n'è un'altra, che è quella, come accennava lei, della facilità con cui si può far nascere un'impresa, e alcuni report pubblicati in questi mesi, quello della Boston Consulting Group, quello della McKinsey, quello dell'OCSE, fanno proprio vedere come sta accelerando la creazione di posti di lavoro legati a realtà più piccole, ma con prospettive di crescita altrettanto interessanti. Quindi questo è un aspetto positivo, guardando anche al tessuto sociale italiano, anche all'individualismo nostro, dell'imprenditore piccolo. Ed è per questo che a maggior ragione esiste un ruolo quasi fondante dell'infrastruttura in Italia. Perché siccome l'Italia è in qualche modo, per storia, approccio, struttura sociale, meglio posizionata di altri paesi per cogliere le dinamiche della media piccola, bisogna fare attenzione, perché non avere un'infrastruttura su cui questa potenzialità si scarica può essere più boomerang che non in altri paesi. E questo è un passaggio importante, non so quanto colto dalla classe politica. A proposito di infrastruttura, c'è chi sostiene che a livello nazionale le cose andranno avanti molto lentamente e ci potrà essere invece una spinta a livello locale. Pensiamo ad alcuni progetti che sono, se non proprio partiti, comunque a buon punto. Lei come vede questa dinamica? Se guardo al nord Europa, quella dinamica di cui accenna lei, delle municipalità che si fanno carico di un certo livello di investimento, è già una realtà. Io penso che in Italia sia possibile, ma non sarà la soluzione del problema. Sarà un fattore che può aiutare il problema. Questo ovviamente è una mia opinione personale, ma ci sarà comunque bisogno di un architetto non che costruisca, ma che almeno stabilisca bene le regole secondo cui costruire a livello nazionale. Sì, perché parliamo di ridisegnare il mondo delle telecomunicazioni in un'altra ottica. parliamo di ridefinire le posizioni di forza nel settore, e questo è il nucleo centrale della discussione sulla banda larga. Sì. Bisogna fare attenzione che i legittimi interessi dei partecipanti al settore non finiscano però poi per rallentare un percorso che avrebbe degli impatti, per quello che dicevamo prima, che vanno ben al di là del futuro del settore delle telecomunicazioni. Questo tema, lei ha accennato alle regole. Voi quando parlate di regole fate riferimento a un orizzonte più ampio e dite, cosa che potrebbe anche allarmare molti, sono necessarie nuove regole, ma internet non è nato e questa economia digitale non è cresciuta proprio grazie alla quasi mancanza di regole? Questo è un tema centrale. Io penso che siamo arrivati al momento in cui tale e tanta è l'attività di relazioni, di educazione, di istruzione, di informazione e di creazione di valore aggiunto sulla rete, che noi dobbiamo assumere adesso questa rete un atteggiamento di chi costruisce una polis, una città. Come in tutte le città, bisogna avere i segnali, il traffico, le indicazioni, far capire che si sta entrando in una zona pericolosa e avere delle regole di convivenza. Allora, è vero che oggi noi beneficiamo di un approccio che è stato diverso da quello che abbiamo visto nella società, mi lasci dire, analogica, ma ci sono delle regole precisissime su cui internet è nata, regole tecnologiche, regole di apertura che tutti hanno rispettato. Bisogna fare, secondo me, molta attenzione, e in questo occorre più sensibilità dal mondo politico, delle istituzioni. Qui non si sta parlando di fare delle regole per assicurare dei flussi di bit, si sta assicurando che elementi importanti della vita, anche delle esposizioni dei nostri figli a questi strumenti, dei più deboli, dei più indifesi fisicamente e culturalmente, vengano messi in carico, perché stiamo costruendo una nuova società. Sì, forse prima eravamo in un paese, oggi la città è veramente diventata grande, quindi le regole sono fondamentali. Assolutamente. A proposito di regole, vorrei concludere facendo anche un riferimento all'attualità. Questa settimana abbiamo commentato, per quel che è possibile commentare, questo EG8. Oramai o si utilizza la E o si utilizza la I, dipende a che cosa si fa riferimento, comunque quando si parla del mondo digitale. Lei pensa che queste regole debbano essere create da organismi internazionali o da accordi internazionali, o ci possono essere degli stati guida, Stati Uniti, in Europa, la Francia è molto attiva, almeno su alcuni punti, diritto d'autore, eccetera, eccetera. Io penso che lo Stato-Nazione, c'è una menzione nel libro di come gli Stati-Nazione si pongono di fronte a queste tematiche, è una nozione che va un po' in crisi quando si parla di regole sulla rete. E ancora una volta, dobbiamo viverla come una minaccia o come una grande opportunità per rilanciare istituzioni come il G8, l'OCSE, la stessa Europa, che peraltro ha scritto una magnifica agenda digitale, per creare questa nuova regola di convivenza che, secondo me, trasale allo stesso tempo le barriere nazionali, ma dà un enorme valore all'individuo e alla comunità locale. Questa è un po' la sfida, secondo me, entusiasmante. Bene, io la ringrazio anche per aver citato l'agenda digitale europea, visto che in Italia c'è un forte dibattito e anche una spinta dal basso perché anche noi ci dotiamo di un'agenda digitale, e mi piace ricordare che molti hanno detto non è necessario crearla, basta copiare quella europea che ci dà molte indicazioni. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a lei. Bene, grazie quindi all'ingegner Francesco Caio. Vi ricordo che sulla versione podcast del nostro programma, che troverete poco dopo il termine della nostra puntata, quindi poco dopo le 17, troverete la versione integrale di questa intervista, molto interessante a mio parere, e tra l'altro questi sono temi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, non solo economico, del nostro paese, quindi temi sui quali prestare molta attenzione, visto che in questi giorni parliamo di elezioni. Comunque vadano a finire le elezioni nel vostro comune di appartenenza, se abitate in una delle zone dove ci sono elezioni in questo fine settimana, sarebbe importante anche a livello locale suggerire alla pubblica amministrazione, far presente, far pressione alla pubblica amministrazione anche locale l'importanza di questi temi della rivoluzione digitale anche a livello locale, e non intendo solo a livello di pubblica amministrazione, ma sicuramente i comuni e le regioni possono far molto per spingere lo sviluppo anche nelle aziende. Questo è 2024, ci fermiamo per qualche minuto, tra poco parliamo di app, che è un modo, un gergo per parlare di applicazioni, piccoli programmi che vanno installati su smartphone e tablet. Chiamateci, magari suggerendo la vostra app preferita, il nostro numero verde vi aspetta, 800 24 0024, a tra poco. 2024. Mi sono dimenticato la password per entrare dentro a Facebook e adesso la ritrovo, perché di solito lo utilizzo su un computer dove la password è già impostata e invece qua devo ricordarmela, ma ne ho due o tre in mente, adesso riesco ad entrare. Dunque, potete comunicare con noi anche via Facebook, cercate la nostra pagina, naturalmente 2024. Però, come sempre vi ricordo, preferiamo ascoltare la vostra voce al telefono, quindi chiamateci al numero verde 800 24 0024 per parlare di che cosa? Di applicazioni, quelle che comunemente vengono definite apps. Saluto Marco Dalli dalla redazione di dday.it. Ciao Marco, bentornato. Ciao Enrico, un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori. Tu dici app o application? Secondo me non lo dice più nessuno, application. No, direi che si usa app e basta. Cioè tutti capiscono, anzi l'altro giorno dicevo, guarda, c'è questa application, cioè, mi intendi un'app? Questo è un po'... Senti, Gianfranco Giardina dov'è? Che da Gianfranco un po' non lo sentiamo. Si gode le sue meritate vacanze. Quindi lo ritroveremo tra qualche settimana. Dunque oggi parliamo di applicazioni e c'è un... possiamo dire un boom incredibile di applicazioni un po' su tutti gli store, soprattutto su iOS, cioè sull'App Store e anche sull'Android Market. Sì, in questo momento diciamo che gli store principali sono quelli dedicati alle piattaforme iOS, quindi iPhone, iPad e iPod Touch, e l'Android Market, quindi tutti i terminali Android. In questo momento, quindi nel mese di maggio, ci sono all'incirca 390.000 applicazioni sull'App Store, sia per iPhone che per iPad, e un po' meno di 300.000 applicazioni sull'Android Market, quindi un totale... Un numero incredibile. Sì. C'è chi in passato, anche 2024, ha detto sono un sacco di applicazioni inutili. In realtà dipende da che cosa uno fa. Magari c'è l'applicazione utile solo per 10 persone al mondo. Sì, ci sono anche delle applicazioni molto settoriali, destinate a una classe di professionisti che quindi... chiaramente il pubblico generalista non può usare, però non ha detto che sia inutile. Dunque, parliamo di questo oggi anche con le vostre sollecitazioni. Poi incontreremo anche una persona che ci racconterà un'esperienza di un'azienda italiana che ha colto l'opportunità che è stata messa a disposizione, perché Marco, devo dire che da pochi anni, perché se pensiamo che poi lo scopriremo quando sono nati, però gli app store, cioè gli application store più importanti sono nati da pochissimi anni, 2, 3, 4 anni, si sono anche create una serie di professionalità, programmatori, esperti, sì, eccetera eccetera. E sì, esatto, questi, peraltro chi è molto bravo in questo campo poi è riuscito anche a fare un sacco di soldi. Sì. Comunque trovare nuovi a trovare nuove idee, nuovi mercati. A proposito di applicazioni, questa settimana Google ne ha presentata una che serve per pagare. Spieghiamo subito di che cosa si tratta. Aggiungendo però che poco dopo questo annuncio abbiamo aggiunto una nuova freccia nella mappa delle denunce tra le società più importanti nel settore high tech, perché eBay e PayPal, la controllata specializzata nei pagamenti elettronici, che è appunto di proprietà di eBay, hanno fatto causa a Google e a due dirigenti per aver rubato segreti industriali legati ai sistemi di pagamento via telefono cellulare. Allora, poche ore prima, giovedì, Google aveva presentato due nuovi servizi, Google Wallet, che è quello più importante, e anche Google Offers. Il Wallet è un sistema per pagare tramite smartphone con sistema Android e tecnologia NFC, cioè Near Field Communication, un sistema via radio che permette di mettere in comunicazione due strumenti avvicinandoli. Nel telefono e in questo chip sono contenute le credenziali di una carta di credito, quindi avvicinando il telefono ad un lettore, ad un POS particolare che è dotato di antenna, si effettua il pagamento. Una cosa molto molto veloce e molto semplice. Il servizio di Google non è ancora attivo, verrà lanciato in estate, si inizierà con alcuni test a New York e a San Francisco. Va detto che non si tratta di una novità assoluta, perché quando Google dice una cosa sembra che abbia inventato tutto Google. In realtà non è così, perché sperimentazioni di questo genere sono in corso in tutto il mondo, anzi direi che forse la prima ad avere lanciato cose del genere a livello di test è stata Nokia, perché da molto tempo Nokia inserisce in alcuni telefoni di test la tecnologia NFC. Ricordiamo anche che in Giappone da molti anni si paga con il cellulare. In Europa l'ultimo test, tanto per citarne uno, è stato lanciato in Gran Bretagna da Orange, o Orange comunque l'operatore di telefonia mobile di proprietà di France Telecom e Barclays. E c'è un network già di 50.000 negozi già abilitati. In Italia ci sono alcuni casi che sono basati sulla stessa tecnologia che utilizzerà Google, cioè la tecnologia Mastercard PayPass, cioè ci sono carte con dentro un chip a radiofrequenza, basta avvicinare questo chip e si fa il pagamento. Certo, non si tratta di una cosa che viene fatta via telefonino, ma concettualmente la cosa è identica, analoga, perché basta inserire questo chip all'interno del telefonino, collegarlo con la SIM e il gioco è fatto. Una cosa molto simile, concettualmente molto simile, ne abbiamo parlato anche 2024, viene fatta da ATM Milano assieme a Telecom Italia, perché l'abbonamento alla metropolitana, ai tram, ai trasporti pubblici in generale di Milano possono essere caricati sul telefonino, e quando si entra in metropolitana basta passare il telefonino sul tornello, sul lettore, in questo modo, senza strisciare nulla, basta avvicinarlo e la tecnologia NFC abilita il tutto. Digital News. Adesso abbiamo altre notizie della settimana, parliamo di tariffe. Quelle di Tre, che attualmente sono tra le più competitive nel mercato della telefonia mobile, potrebbero, sottolineiamo potrebbero, essere riviste. Spieghiamo anche perché. Il Consiglio di Stato ha bocciato un ricorso con cui H3G chiedeva l'annullamento di una delibera con cui l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni riduceva le tariffe di terminazione. Che cosa sono? Si tratta del prezzo previsto quando un cliente di un operatore A chiama un cliente dell'operatore B. Fino alla decisione di Agicom, le tariffe previste per le chiamate dirette a Tre erano più alte in funzione di un regime asimmetrico creato per facilitare l'entrata di nuovi operatori e favorire la concorrenza nel settore della telefonia mobile. Tre ha goduto di questa particolare asimmetria dall'entrata nel mercato nel 2003, ma ora la Agicom e anche il Consiglio di Stato con questa decisione dicono sostanzialmente che ormai non è più da considerare un nuovo operatore e la terminazione deve essere quindi adeguata, tutti uguali. Ora Tre dovrà tra l'altro probabilmente restituire una serie di arretrate che vanno, si calcola, dai 40 ai 65 milioni di euro. Finalmente l'autorità garante per la concorrenza e nel mercato ha avviato una procedura contro la Apple e anche Comet per la poca chiarezza sulla garanzia. Apple tenta di vendere, a volte obbliga, all'acquisto di un servizio chiamato Apple Care, cioè l'estensione di un anno della garanzia di alcuni prodotti che però il rivenditore deve già garantire per legge per 2 anni. Quindi nel caso specifico la garanzia deve essere riconosciuta da un qualsiasi rivenditore di Apple o dalla stessa Apple sul negozio online, cosa che attualmente non fa. Quindi ben venga la procedura del garante per la concorrenza del mercato. Abbiamo citato questa notizia perché sono molti gli ascoltatori che ci hanno scritto nelle settimane, poche settimane fa, segnalando alcune cose su Apple. Parliamo di Microsoft, che potrebbe svelare un nuovo sistema operativo per tablet tra pochi giorni e potrebbe essere una versione di Windows 8. Nel frattempo, un analista di Citi ci informa che Microsoft guadagna, pensate, 5 volte di più nella vendita degli smartphone Android piuttosto che con quelli con Windows Phone. Uno si domanda, ma perché? Questo grazie alle royalties che HTC deve pagare a Microsoft in base ad un accordo raggiunto dalle due aziende dopo che quella americana aveva denunciato i taiwanesi per avere infranto alcuni brevetti. Quindi Microsoft incassa $5 per ogni HTC venduto, HTC con sistema operativo Android, e avrebbe già incassato $150 milioni, mentre dalle vendite di licenze per Windows Phone 7 ne avrebbe incassati solo 30. Per lo stesso motivo Microsoft sta negoziando anche con Motorola, LG, Samsung e altri produttori. Adesso però ci fermiamo, ci sono le notizie per chi viaggia su strade e autostrade, riprendiamo tra poco. Numbers 2024. Numbers. I primi application store, i negozi virtuali dove scaricare software per smartphone, vennero creati nel 1999. Nei primi anni le applicazioni disponibili erano principalmente per Symbian, Palm e Windows Mobile. Nel 2008 nascono App Store, Ovi e Android Market. Oggi, dopo 3 anni, quanti sono gli application store disponibili sul mercato? Numbers. 2024. Oggi parliamo di applicazioni, vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi, anche per suggerirci la vostra applicazione o le vostre applicazioni preferite o per farci domande sulle applicazioni. Ad esempio, nelle scorse settimane, da cui partiremo tra poco, molti, visto che l'abbiamo citata più volte in una puntata recente, mi chiedono come funziona Shazam. Tra poco spieghiamo anche di che cosa si tratta. Adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis. Prima però vi rispondiamo alla domanda che abbiamo fatto all'interno di Numbers. Ogni tanto me la dimentico. E giustamente Paolo Corleone mi dice: oh, ricordati di Numbers. Abbiamo detto quanti sono dopo 3 anni gli application store disponibili sul mercato. Allora, 6 sono i principali, quindi c'è l'App Store dell'Apple, l'Android Market, che sono i più famosi, e poi ce n'è uno di HP per il sistema operativo WebOS della Palm, che è stata comprata da HP, che è l'App Catalog. Poi c'è l'App World della RIM, quelli che fanno i BlackBerry, c'è Windows Phone Marketplace per Microsoft, e c'è anche Ovi Store, che però scomparirà alla fine dell'anno, però esiste ancora per i prodotti basati su Symbian. Ci sono, pensate, altri 27 market, quindi negozi virtuali di altri produttori, chi fa i telefoni, chi fa solo applicazioni, eccetera eccetera. 27, quindi in totale sono, almeno secondo i dati che abbiamo trovato su Wikipedia, sono 33 i negozi. Maria Chiara Grandis, nel nostro giro d'Italia della tecnologia, dove ti trovi oggi? Oggi naturalmente parliamo di applicazioni, e anche tu con le persone che hai incontrato hai parlato di questo. Maria Chiara, ciao. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Oggi siamo al punto vendita Saturn di Verano Brianza. L'hai detto, anche qui parliamo di applicazioni, sono moltissime quelle disponibili e le utilizzano un po' tutti, dai professionisti ai più giovani, che ci dicono qui preferiscono i giochi e soprattutto i social network. E proprio a proposito di questo, noi abbiamo chiesto ai consumatori che sono qui al reparto di telefonia e tablet cosa ne pensano delle applicazioni dedicate alla geolocalizzazione. Pensiamo per esempio a Foursquare, ma anche a Facebook Luoghi. E allora vi facciamo subito sentire cosa ci hanno raccontato. Sì, un'applicazione molto usata anche a scuola e nei locali, così, e a volte si scrive dove sei, cameretta, e dopo si commenta anche il luogo. Cosa ne pensi di Luoghi? Secondo te è un po' invasivo della privacy o no? Secondo me no, cioè nel momento in cui sono connesso con un dispositivo, potrebbe essere anche GSM che non sia UMTS, chi vuole sapere dove sono lo sa, poi sono comunque io che... Cioè, nel momento in cui accetto di avere uno strumento che si collega col mondo, non mi pongo il problema. Sono le 16:20, questa è 2024, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 824 0024. Aggiungo, visto che non lo ricordo quasi mai, gli SMS, se volete scriverci 349 238 6666. Ci sono altre possibilità: Facebook, la nostra pagina 2024, oppure la posta elettronica 2024@radio24.it. Marco Dalli dalla redazione di dday.it. Dunque, abbiamo citato Luoghi di Facebook, mi fa un po' sorridere perché molti la chiamano Places, però ci sono molti che ci scrivono: traducete in italiano tutte le parole. Beh, insomma, sto Places è basato sulla geolocalizzazione, cioè come funziona? Spieghiamo. Dunque, il funzionamento in realtà è molto semplice. Quasi tutti gli smartphone, quantomeno tutti quelli di fascia alta, hanno all'interno il GPS, quindi sono in grado di calcolare la posizione sul globo con lo stesso sistema che usano i navigatori da macchina, quindi una tecnologia già rodata da parecchi anni. In più gli smartphone hanno il cosiddetto AGPS, o meglio Assisted GPS, che consente di calcolare la posizione tramite alcuni trucchetti che possono essere utilizzare le posizioni fisse delle celle di telecomunicazioni, oppure inviare i dati raccolti da satelliti a un server esterno per calcolare la posizione più velocemente, e in questo modo appunto il calcolo della posizione sullo smartphone risulta anche molto più veloce rispetto al navigatore tradizionale da macchina. Quindi Places, come del resto le altre applicazioni che si basano sulla geolocalizzazione, sostanzialmente cosa fa? basandosi su questi dati, cioè sa dove siamo. Calcolano la nostra posizione, cercano quali sono i posti ovviamente inseriti all'interno del social network, quindi se parliamo di Facebook Loghi bisogna registrare i posti all'interno di Facebook Loghi. Ci sono altri social network come per esempio Foursquare, molto attivo anche in America, e Google Latitude, quindi noi potremmo ricercare il luogo in cui siamo, lo selezioniamo e facciamo il cosiddetto check-in, quindi dichiariamo al mondo che siamo in quel momento in quella posizione. Che uno a questo punto potrebbe chiedersi per quale motivo, però ognuno sì, ci mette ognuno, del suo. Ognuno del suo, sì. Senti, dicevamo prima di Shazam, che è un'altra applicazione molto utilizzata, allora rispondiamo anche a chi ci domanda come funziona soprattutto. Sono curioso anch'io di capire come funziona. Cos'è, ho capito, mi piace molto. Beh, intanto spieghiamolo per i nostri ascoltatori che magari non la conoscono. Shazam è un'applicazione, ma ce ne sono anche altre, che consente di sapere quale canzone stiamo ascoltando in quel momento semplicemente registrando una brevissima registrazione col telefono, si parla di circa 15 secondi, e questa registrazione viene inviata al server di Shazam o dell'applicativo e ci viene in ritorno consegnato il titolo della canzone. Come funziona però? Ovviamente dietro c'è tutto un database di canzoni, sono milioni e milioni di brani, non sono però archiviati come fosse, non so, gli MP3 sul nostro disco o sul nostro lettore portatile, ma quello che viene mantenuto di queste canzoni sono i picchi di frequenza. Quindi della registrazione di 15 secondi che noi facciamo con lo smartphone vengono estratti questi picchi di frequenza e vengono confrontati poi con quelli all'interno del database di Shazam. Quindi è un modo abbastanza semplice per ricercare tra veramente decine di milioni di canzoni e provatelo, è abbastanza efficace. L'unica cosa, non funziona con concerti o comunque brani eseguiti dal vivo, perché tutto il database di Shazam, ma anche gli applicativi simili, è basato su registrazioni in studio. Quindi se noi andiamo a fargli sentire un brano eseguito dal vivo, è probabile che non riconosca. Claudio Somazzi ha fondato Applix a Milano, benvenuto a 2024 Claudio. Ciao, buongiorno. Voi in Applix avete realizzato una applicazione che ha fatto molto successo. Questa non è un'applicazione gratuita, è un'applicazione a pagamento che in qualche modo si basa sulla geolocalizzazione anche in questo caso e ci cala in una Roma antica, quindi diciamo coniuga il luogo attuale con la descrizione del luogo passato di tanti anni fa. Sì, noi abbiamo lanciato all'inizio dell'anno questa nostra applicazione che si chiama Virtual History Roma. È un'applicazione che, come dicevi tu, ha avuto un discreto successo, peraltro poi paragonato ad altre applicazioni con prezzi di vendita inferiori. Noi abbiamo puntato su un modello diverso, le applicazioni diciamo nella zona euro costa 6,99 e in America sfiora i $10, per cui sicuramente un ottimo rapporto di download prezzo. Ma come dicevi tu, in realtà noi abbiamo fatto un po' una scommessa, abbiamo attraverso una, tra l'altro siamo stati particolarmente contenti che Steve Jobs alla presentazione di iPad 2 non ce l'aspettavamo, eravamo come tutti quelli appassionati di questo mondo incollati al web a vedere la diretta del keynote di Steve Jobs. A un certo momento ha fatto vedere la nostra applicazione, definendola un'applicazione magica, che ha reso con un'interfaccia che a lui è piaciuta molto. Perché? Perché in realtà attraverso il nostro brevetto che si chiama Bubble Viewer, quindi per una volta al di là che l'abbia fatto Applix, credo sia importante in un mondo che è appena nato, quindi più o meno il mondo delle applicazioni sono circa 3 anni, l'iPad un anno e qualche mese, per la prima volta un'azienda italiana ha esportato tecnologia lì dove la tecnologia la fanno in maniera molto seria come gli Stati Uniti. Ma vuol dire come funziona, come hai detto tu, in realtà se sei in un luogo predefinito, quindi per esempio sei davanti al Colosseo, usando tutti gli strumenti tipici dei tablet, degli smartphone, per cui il GPS piuttosto che il giroscopio piuttosto che la bussola, puoi vedere davanti a te il Colosseo com'è ovviamente nella realtà e navigare a 360 gradi girando l'iPad intorno a te come era invece in un'epoca diversa, per esempio nel nostro caso diciamo intorno al 70 d.C. Quindi potremmo dire che è una sorta di realtà aumentata, ma nel passato. Sì, noi poi ovviamente qui ci sono correnti di pensiero molto diverse tra loro, come è giusto che sia, ed è anche lo spirito con cui si approcciano questi nuovi mondi. Diverse visioni portano anche a diversi sviluppi e questo fa sicuramente bene al nostro mercato. Ma noi non siamo poi dei grandi appassionati di realtà aumentata. Oggi la realtà aumentata oggettivamente ha già un utilizzo pratico, cioè voglio sapere qual è la metropolitana più vicina alla stazione, piuttosto che qual è la strada più breve per arrivare a un determinato punto, diciamo non ha una user experience particolarmente di soddisfazione. Per cui noi in realtà abbiamo lavorato su un concetto diverso, non realtà aumentata, ma quello che abbiamo ribattezzato su realtà aumentata. Quindi Bubble Viewer, quindi da bolla, ricostruire intorno a te a 360 gradi in un tablet qualcosa che nella realtà non esiste, in quella realtà, ma magari esisteva sì, 100, sì, 200, sì. 1000 anni prima. Quindi posso pensare che ad esempio si possa fare la stessa cosa, che ne so, in un quartiere dove non ci sono ancora le case, uno va nel posto dove dovranno essere costruite le case e potrebbe vedere come è fatto quel quartiere. Guarda, questo è un esempio particolarmente calzante. Applix ha appena aperto una sede negli Stati Uniti e in realtà non abbiamo, vicino a New York, a Philadelphia per la precisione, non abbiamo, siamo ricorsi a venture capital piuttosto che situazioni finanziarie. Siamo arrivati lì per un motivo molto banale, è che Bubble Viewer è stata vista da un costruttore americano che ha fatto esattamente il tuo ragionamento, quindi è perfettamente calzante. Ho detto, io ho un bellissimo centro commerciale che devo costruire, però adesso ho un buco. Come faccio a far vedere ai miei futuri clienti, investitori, come verrà? E quindi ci ha chiesto la possibilità di sviluppare un prototipo per questo mall, e l'abbiamo sviluppato e si vede che gli è piaciuto così tanto che ha voluto diventare il nostro socio e ci ha accompagnato in questa nostra avventura americana. Per cui, come dici tu, abbiamo fatto anche esperimenti per esempio sull'automotive. Cioè, poi ne parliamo. Claudio, rimani con noi. Ti fermo un attimo perché vorrei sentire prima della pubblicità Carlo, che ci chiama proprio da Roma. Abbiamo citato la Roma antica della vostra applicazione. Carlo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, io vi parlo di Roma moderna. Io in questo momento sto effettuando un soccorso stradale per moto, perché sono il titolare di un servizio di soccorso stradale per moto, e sto preparando un'applicazione attraverso il codice QR di cui mi sono già dotato, per far sì che chi mi chiama dopo aver memorizzato il mio sito internet, attraverso un suo smartphone, mi possa mandare la sua piantina di dove è fermo e possa guidare il mio furgone per arrivare a trovarlo, a prenderlo nel modo più semplice in assoluto. E questa è un'applicazione specifica estremamente importante perché inserisce il concetto sicurezza in una situazione dove non ce n'è. Assolutamente, è una bella idea. Tu Carlo dici sto preparando perché sei capace di farla tu l'applicazione o... No, io sono tecnicamente assolutamente incompetente. Quindi hai trovato... Però devo sfruttare tecnologia disponibile e vedo, i miei occhi hanno un minimo di visione, ho visto questo mio... questa mia attività 15 anni fa che non c'era e l'ho sviluppata, l'ho studiata, ho fatto il marketing, ho migliorato i servizi che prima c'erano e sto facendo cose perché se si ha un minimo di visione non bisogna mai fermarsi davanti al primo ostacolo. Corretto. Quando sarà pronta questa applicazione? Prima della fine dell'anno, appena trovo il tempo per concentrarmi e la persona che mi trasferirà la sua tecnologia nella parte pratica della utilità specifica. Però io già lo vedo, i miei occhi già lo vedono e questo è un grosso passo avanti. Carlo, io ti ringrazio per averci chiamato perché hai ragione, a volte non servono le competenze tecniche, c'è poi chi è in grado di realizzare questo, ma la visione è importante. Questa ad esempio è un'opportunità messa a disposizione da un mondo nuovo per un mestiere tradizionale, quello del soccorso stradale. Pensate anche in termini di sicurezza quante potrebbero essere le applicazioni che possono oggi essere pensate e realizzate in futuro. Sono le 16:30, c'è la pubblicità, ci risentiamo tra poco. 2024. Vi ricordo che 2024 vi proporrà poco dopo il termine della nostra trasmissione la versione podcast di grande successo, quindi vi invito a scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Paglierini, grazie a Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica e creativa. e a volte mi ricorda anche tutto quello che mi dimentico. Dunque andiamo a Pordenone, dove c'è Alain. Bentornato Alain, grazie di averci chiamato. Buongiorno Enrico, probabilmente faccio un intervento giurassico, ma forse neanche tanto, visto che mi avete richiamato, perché ogni volta che sento parlare di apps, adesso faccio una cosa flash, ma mi piacerebbe, manderò una mail per cercare di affrontare il tema in una trasmissione magari in futuro. E sotto Linux, chi lo usa, sa che ci sono i cosiddetti repository, si chiamano così, hanno dei brutti nomi purtroppo. I repository non sono nient'altro che un programmino dove tu ti colleghi, negozi virtuali, negozi per modo di dire, cioè sono cumuli di programmi in cui tu digiti quello che ti serve, te lo scarichi e te lo usi. Faccio un esempio brevissimo e mi piacerebbe, sto vedendo adesso con la scuola elementare del mio paese, mi piacerebbe mettere su il futuro Linux, potrei fare nient'altro che, mancando la connessione, creare un computer con tutti i repository dentro, dopodiché i computer in locale vanno e se li scaricano, quindi potrei fare un piccolo store locale, per capire. Sì. Quindi tu parli di app per i computer, non per gli smartphone, diciamo. No, esatto, per quello che dicevo sono un po' giurassico, ma non penso nemmeno tanto. No, anzi. Affrontarlo in futuro. Sì. Visto che mi ero ti lascio con questo, con questa cosa, mi ero un po' stufato di tutti questi crack sotto Windows piuttosto che sotto qua, sotto là, e non c'è niente da craccare sotto Linux, perché ci sono i repository, sono gratuiti, sono mantenuti in parte dalla comunità locale, in parte tipo Ubuntu, dall'azienda che lo produce, ma questa è la realtà dei fatti da decenni ormai, sì. Da qualche mese. Esatto. Grazie Alain, buon lavoro e buon weekend. Buona giornata a voi. Sicuramente Linux, ha citato Alain, l'ambito scolastico andrebbe spinto di più, andrebbe fatta molta più promozione anche nella pubblica amministrazione. Laddove è possibile, Linux sicuramente è una buona soluzione. In generale però volevo chiedere a Claudio Somazzi che cosa ne pensa dei vari application store, quindi iOS e Android sono i più noti, però io prima ho detto che ce ne sono addirittura 33. Quali differenze ci sono? Dobbiamo proprio dimenticarci, quando parliamo di app, di tutti gli altri, cioè ormai parliamo solo di Android e di iOS, cioè per gli altri non c'è più speranza? Ma innanzitutto bisogna proprio ricondurre tutto a livello temporale. Io oggi starei molto cauto, e noi sviluppatori purtroppo possiamo solo fare qualche scommessa, perché in realtà è nato 2 anni e mezzo fa il nostro mercato, quindi oggi la realtà è nei numeri, l'85%, nonostante Android è il sistema operativo più, diciamo, per gli smartphone di fascia alta, più diffuso al mondo, la grande verità è che l'85% dei download vengono fatti ancora su un unico app store, che è quello di Apple, che purtroppo è per noi sviluppatori, per gli editori, per tutti quelli che stanno andando verso quel mercato lì, è ovviamente un limite non piccolo. Conoscete tutti le polemiche, le discussioni, i confronti per il 30% che Apple si trattiene sul prezzo di vendita. Io in realtà poi dipende anche molto dallo strumento che uno ha. Per esempio, oggi si sta abbastanza consolidando l'utilizzo come tablet di iPad, perché sicuramente è il tablet più avanzato e soprattutto per un pubblico medio che quindi ama i giochi, come può essere interessato a applicazioni anche più specifiche, e quindi oggi, diciamo, l'unico store di riferimento può essere iTunes, e quindi l'App Store di iTunes. Nel mondo degli smartphone invece, come dicevi tu, in realtà poi Android ha un suo market, diciamo ufficiale, l'Android Market, ma come voi sapete sono nati, perché Google lo consente, anche altri store, e questo ovviamente porta ad un maggiore interesse da parte degli sviluppatori verso questa piattaforma. Il resto, francamente, purtroppo è ancora molto legato l'application store al device, e quindi al sistema operativo. Motorola adesso ha lanciato il suo Xoom, che però utilizza Android, e quindi si mette in quella filiera che abbiamo detto prima. BlackBerry, che in realtà si potrebbe portare per tutti noi sviluppatori il mercato del business, in realtà ha un application store ancora molto indietro nei numeri. Cioè oggi uno sviluppatore parte con Apple, arriva su Android e finisce più o meno i soldi dello sviluppo sì, prima sì. di arrivare a Senti, applicazioni che si decide. A proposito di Android, della differenza tra Android e iOS, un ascoltatore su Facebook ci scrive, tra i vari messaggi che ci sono arrivati, dice: io ho Android, mio figlio ha 14 anni iPhone, io faccio molta fatica a cercare e trovare le applicazioni disponibili, lui no. Qual è la differenza al di là dell'età, che forse conta qualcosa? Guarda, mi piacerebbe rispondergli che oggi Apple è più avanti negli strumenti di ricerca. Purtroppo non è così vero. Android sicuramente ha un, proprio per quello che ho detto prima, Android viene da Google. Google non è concentrato sulla produzione dei device e quindi sostanzialmente è concentrato alla più grande diffusione del suo sistema operativo con collegato al suo Android Market, quindi sostanzialmente è poco attento alla user experience di ricerca. Sì. Diventa invece, ovviamente Apple ha fatto tutto un altro tipo di discorso perché ha sia il sistema operativo proprietario, sia i device proprietari e quindi il negozio digitale. Senti Claudio, prego, però abbiamo pochi minuti. No, dicevo soltanto che però il tema della ricercabilità delle applicazioni oggi è il cuore del problema delle applicazioni. Quando ce n'erano 10.000 era più facile, oggi proprio in questa settimana Apple ha dichiarato di aver tagliato il traguardo del 500.000. Purtroppo molte applicazioni molto belle non riescono ad emergere e questo è un problema molto serio. Ecco, questo infatti è un problema. Ti vorrei fare altre due domande, ma ti prego di essere sintetico. La prima è, può sembrare tecnica, ma in realtà non lo è secondo me. Questa settimana il World Wide Web Consortium, l'associazione che guida lo sviluppo del web, ha inserito il linguaggio HTML5 in una delle ultime fasi che precedono la standardizzazione finale che potrebbe arrivare nel 2014. Visto che molti parlano di questo HTML5, ci sono sicuramente molti vantaggi. Tu pensi che in futuro le applicazioni scompariranno, si tornerà al web perché HTML5 permette di visualizzare pagine web e fare alcune cose che oggi ti permettono di far solo le applicazioni? Ti rispondo velocissimo. Il mondo delle applicazioni è esattamente come il mondo normale. Ci sono delle cose che vale la pena sviluppare, per esempio un prodotto come Roma con delle tecnologie particolari. Ci sono invece delle applicazioni, soprattutto quelle nell'ambito dell'editoria piuttosto che nell'ambito delle utility, che vale la pena sviluppare con linguaggi più semplici. Mm-hmm. Oggi noi stiamo puntando molto sull'HTML5, lo riteniamo innanzitutto una cosa molto valida perché per esempio non hai più il problema di settare l'applicazione sulla grandezza del display, che sembra una cosa banale ai più, ma vi assicuro che a livello di sviluppatore con ora tutti i display tutti diversi, 7 pollici, sì, 9 sì, pollici, sì, sì. No, no, è utile anche perché poi per l'utente finale più facilmente può arrivare e vedere, avere una buona esperienza su un sito da qualsiasi terminale. Ultima domanda, ma ci mettiamo proprio un minuto. Nel mondo di internet tradizionale, se io mi voglio fare un sito internet, oramai esistono tante tecnologie, banalmente chi mette a disposizione piattaforme per i blog, eccetera, eccetera, per far sì che io possa andare in rete molto velocemente. Nel mondo delle applicazioni io mi posso fare quasi in automatico l'applicazione? Sì, nel senso che è stato per esempio il primo lavoro di Apple, sono stati i primi in Italia e tra i primissimi in Europa a lanciare un sito, quindi stiamo parlando di web, dove chiunque abbia mai aperto una mail, usato un file di Excel o di Word, è in grado di realizzare in meno di una giornata la propria applicazione per Android o Apple senza nessun sviluppatore, senza nessune competenze, ad un prezzo ovviamente molto concorrenziale. Questo è abbastanza il futuro. In internet nascono 150.000 siti più o meno al giorno, così viene dichiarato. Oggi noi dopo 2 anni e mezzo abbiamo 500.000 applicazioni. Il problema era proprio che dovevamo passare dagli sviluppatori e spendere tanti soldi. Ora non è più così, si può fare assolutamente in maniera automatica con degli ottimi risultati. Unico limite è la fantasia. Ah beh, questo è sempre vero. Grazie a Claudio Somazzi di Applix, buon lavoro, buon weekend, a presto. Ciao. Sono le 16.45, prima della pubblicità e le informazioni per chi viaggia, ci colleghiamo ancora con Maria Chiara Grandis. Ciao Maria Chiara. Ciao Enrico, ancora buon pomeriggio da Verano Brianza. Noi siamo qui al punto vendita Saturn e abbiamo chiesto se le applicazioni si possono provare sugli smartphone e poi quali sono anche le ultime novità. Sentite allora cosa ci ha raccontato il responsabile del settore telefonia, che è Andrea Agosta. Un consumatore che voglia scegliere uno smartphone può provare le applicazioni in punto vendita? Sì, ha questa possibilità. Abbiamo modo anche di avere dei telefoni con all'interno già una SIM funzionante, quindi si possono provare praticamente tutte le applicazioni, si può provare proprio l'esperienza della gestione dell'applicazione, della navigazione da smartphone a 360 gradi, insomma. Quali sono quelle che suscitano più curiosità? Tra le più richieste solitamente sono applicazioni legate alla navigazione a livello di GPS. Ci sono applicazioni legate a tutti i social network. La maggior parte comunque lo smartphone lo usano proprio per la navigazione anche internet. Molto richieste anche applicazioni per vedere film, piuttosto che per cercare cinema, insomma, per proprio a livello di utilizzo pratico nella vita quotidiana, insomma. Quindi anche quelle che riguardano i trasporti? Sì, assolutamente, anche per sapere gli orari dei treni. Ci sono molte applicazioni anche legate al campo medico, quindi utilizzate proprio anche tuttora negli ospedali. Molte applicazioni anche legate alla borsa. Diciamo che queste applicazioni sicuramente servono molto anche agli utenti professionisti. Ci sono anche applicazioni, per esempio, per collegare smartphone a stampante, al PC, vengono utilizzate? Vengono utilizzate, fondamentale il discorso è che si può stampare direttamente senza fili e quindi è una cosa molto molto comoda anche per l'utente che può scattare la classica fotografia dallo smartphone e stamparla direttamente. Per quanto riguarda i giochi invece, quali sono quelli che sono più gettonati? Angry Birds, che comunque è uno dei giochi sicuramente con maggior successo, stanno uscendo anche tantissimi gadget dai pupazzetti ai portachiavi, quindi sicuramente quello è il principe dei giochi su smartphone, insomma, in questo momento. Ci sono gli store multipiattaforma. Suscitano un po' sicuramente di curiosità, anche se alla fine si usa sempre comunque lo store più che altro legato al proprio sistema operativo, al proprio dispositivo. Ormai si trova tutto su tutte le varie piattaforme. Ma la ricerca dell'applicazione di interesse è facile? In linea di massima è piuttosto facile, perché comunque sui nuovi store effettivamente la ricerca è abbastanza diretta sulla parola di ricerca, insomma, che viene digitata. 2024. Un ascoltatore ci chiede se esiste un navigatore per smartphone che ha funzione tipo HD Traffic di TomTom. Tra due settimane parleremo di navigazione, quindi vi consiglio di seguire la puntata fra due settimane. Poco fa abbiamo parlato di, tra le altre cose, di stampa. Prima dal centro commerciale ci dicevano che si può ad esempio stampare una fotografia da uno smartphone. Si può, Marco? Sì, si può. Per esempio su iPhone esiste o il protocollo proprietario di Apple, che si chiama AirPrint, che consente di stampare verso stampanti compatibili con questo protocollo, oppure un'applicazione di Canon, quindi compatibile solo con alcune stampanti di questo produttore, che si chiama Easy Photo Print. Ci consente di selezionare una foto e stamparla sulla stampante. Tra le altre cose, immagino. Sì. Cioè, immagino che poi la lista vada avanti. Sì, ci sono altre applicazioni. Senti, un ascoltatore ci chiede, più di un ascoltatore, perché qualche giorno fa anche qualche email Facebook ha suggerito una cosa del genere, di parlare di sicurezza, perché le applicazioni sono programmi e attraverso le applicazioni si diffondono anche i virus, cioè alcune applicazioni sono proprio dei virus veri e propri. In realtà poi c'è pericolo oppure no? Ma bisogna fare attenzione, nel senso che gli smartphone stanno avendo una diffusione veramente alta, siamo a livelli dei computer, quindi di conseguenza attirano l'attenzione anche di tutti i programmatori di virus e programmi malevoli in generale. E qui il mondo si spacca un po' in due, perché da un lato abbiamo il mondo iPhone, che è un mondo molto chiuso, per cui se uno sviluppatore vuole presentare la sua applicazione sull'App Store deve sottometterla ad Apple la testa, la prova, verifica che sia legittima, legale, e poi la pubblica. Per Android invece questo non succede, viene pubblicata direttamente sul market e poi successivamente, se c'è la segnalazione o se Google si accorge di qualcosa di losco, viene rimossa. Però se qualcuno l'ha scaricata nel frattempo, ovviamente il virus c'è. Rimane fregato, diciamo. Esatto. C'è però un trucco, nel senso che su Android, quando installiamo un'applicazione, ci viene mostrato l'elenco di permessi che questa applicazione richiede. Quindi, per esempio, se stiamo installando uno screensaver, quindi un salvaschermo, se questo richiede l'accesso alla rubrica telefonica piuttosto che all'elenco dell'email o degli SMS, forse qualcosa di sospetto c'è e tanto vale forse lasciarlo perdere e cercare qualcos'altro. Certo, quindi diciamo stare attenti che le cose che l'applicazione ci chiede siano coerenti con quello che fa l'applicazione. Esatto, un po' di buonsenso in realtà è sempre la soluzione migliore. Certo, se un'applicazione è basata sulla messaggistica, sicuramente ci chiederà l'accesso alla rubrica, questo sì. È evidente. Senti, gli antivirus esistono anche per smartphone. Sì. Voi ad iDay consigliate di installarli oppure no? Per il momento, in realtà, visto veramente il numero esiguo, molto esiguo, di minacce che sono state trovate in questi anni, diciamo che il gioco non vale ancora la candela, o meglio, non vale al momento la pena comprare o scaricare un antivirus per smartphone. Non ho detto però che in futuro questo cambi. Questo sicuramente potrà cambiare. Devo dire che quello che tu hai sottolineato è molto importante, l'abbiamo detto, penso che siano 11 anni che lo diciamo a 2024, cioè che il comportamento, quindi tutte le precauzioni comportamentali siano fondamentali anche di fronte ai virus, di fronte alle email di spam, al phishing, eccetera, eccetera. Marco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro a dday.it. Grazie a voi e buona giornata. Sono le 16:53 minuti, adesso ci colleghiamo per terminare questa puntata con Maria Chiara Grandis, l'ultimo collegamento. Ciao Maria Chiara. Ciao Enrico, qui al punto vendita Saturn di Verano Brianza noi abbiamo chiesto al direttore quando i consumatori vengono a fare i loro acquisti e poi anche qualche consiglio. Sentite allora quello che ci ha detto Marco Colombo. Durante la settimana ovviamente la gente lavora e l'affluenza in punto vendita è nettamente inferiore. Chiaramente il sabato il punto vendita è molto più affollato e maggior parte degli acquisti vengono il sabato. Insomma. Quando consigliate di venire a provare i prodotti? Diciamo che il punto vendita è disponibile tutti i giorni. Ovviamente se uno ha la possibilità di venire in settimana l'acquisto sarà più seguito, insomma, perché non essendoci molta affluenza i nostri ragazzi in vendita potranno seguire il cliente in maniera migliore. La nostra fortuna che non essendo in un centro commerciale anche il sabato, dove noi potenziamo ovviamente un attimino la vendita, la disponibilità dei nostri ragazzi, offre buone opportunità, cioè di fare acquisti tranquilli con il tempo sufficiente, insomma. Come si possono provare i prodotti? Direi semplicemente girando in punto vendita, la maggior parte dei prodotti sono collegati e disponibili ai clienti. Alcuni prodotti molto particolari non lo sono, ma chiedendo agli addetti vendita è possibile farsi fare una prova del prodotto, una dimostrazione. È tutto per questa puntata, grazie per la collaborazione oggi a Margherita e anche a Rosa che ci ha aiutato al centralino e grazie come sempre a Paolo Corleoni. Io sono Enrico Pagliarini, scrivetemi a 2024@radio24.it, tra poco sarà online la versione podcast, tra poco ci sono anche le notizie su Radio 24 e poi lo sport. Ci risentiamo sabato prossimo. 2024.